Ad alta voce, Elia Shilton legge I miei premi, di Thomas Bernard. Traduzione di Elisabetta Dell'Anna Ciancia. Nona puntata. Il premio Franz Theodor Czocor. Franz Theodor Czocor, filosofo e drammaturgo, nonché autore di un libro dal titolo Un civile nella guerra balcanica, che io scoprii nella biblioteca di mio nonno, fu per molti anni presidente del Pen Club e amico di mio nonno, verso il quale nutriva una sincera ammirazione, e per molti anni fu anche ospite di un albergo sul Wallersee che apparteneva a certi miei parenti e nel quale a 3 e 4 anni, ma pure a 5 e a 6 e perfino a 7 e 8 io scorrazzai senza avere idea di chi fossero quei due signori, Franz Theodor Czocor e Eugen von Horvath, che alloggiavano al piano di sotto nelle grandi camere arredate con mobili Impero e Biedermeier e perfino con una serie di pregiati pezzi d'epoca giuseppina e impreziosite da magnifici stucchi dei soffitti con vista sul bosco. Czocor e Horvath, i due amici che nell'albergo dei miei parenti scrissero buona parte delle loro pièce e dei loro romanzi, con me pare abbiano giocato sull'impiantito di legno della sala a pian terreno e anche fatto delle passeggiate fino al lago, ma io non riesco a ricordarmene. Mio nonno andava spesso a passeggio con Czocor e con Horvath, a quanto so. Nell'albergo dei miei parenti c'era una grande sala al primo piano in cui si faceva teatro tutto l'anno e questa era forse l'atmosfera giusta per i due amici scrittori di teatro. Ricordo anche i mucchi di sgargianti costumi di scena nel sottotetto e ricordo anche una pièce che fu rappresentata nel salone e nella quale un uomo nudo legato a un palo veniva fustigato, per quale ragione non saprei, ma rivedo la scena con grande nitidezza. Mi aveva fatto un'impressione terribile. Si trattava di un dramma politico. Czocor e Horvath furono magari ispirati da quel palcoscenico, è probabile. In seguito ho incontrato Czocor una sola volta a Salisburgo, non saprei più dire in quale occasione, ma ricordo che con il romanziere Georg Zaiko e me era seduto a un tavolo sul belvedere del ristorante della fortezza e senza sosta raccontava di mio nonno tutti gli avvenimenti che mi erano sconosciuti. Amava mio nonno perché solo di una persona amata si parla come lui parlava di mio nonno. E poiché io stesso ho amato mio nonno sopra ogni altra persona al mondo, lo ascoltavo volentieri. A Zaiko, un tipo estremamente egocentrico e pieno di sé, all'epoca un uomo di fama, quei discorsi di Czocor riuscivano quasi insopportabili e a volte faceva il tentativo di interromperlo, ma Czocor non si lasciava interrompere. «Questo signore», disse Czocor, «è stato un tempo direttore dell'Albertina di Vienna». E la notizia mi fece un'impressione enorme. Alla fine del pranzo, Czocor, all'epoca già un vecchio signore, era stanco. Zaiko invece non era stanco e così Czocor si accomiatò e disse a me, visto che ero giovane dunque come naturale non ero ancora stanco, di mostrare io la città di Salisburgo al parimenti non ancora stanco Zaiko. Non sapevo ancora in quel momento quale catastrofe incombesse su di me. Non appena Czocor si fu accomiatato, Zaiko, che ha scritto il romanzo L'uomo nel cannetto, cominciò a spiegarmi che cosa è un romanzo. Nel caldo torrido del meriggio cominciamo dunque a girare per la città e il signor Zaiko non la finiva più di predicarmi che cosa è un romanzo. Lo conducevo di strada in strada, di chiesa in chiesa, ma lui parlava soltanto del romanzo. Mi intronava senza alcun riguardo con la sua teoria del romanzo. non aveva la più pallida idea che quella sua teoria esposta senza un attimo di tregua cominciava a darmi il mal di testa. E alla fine le teorie letterarie sono rimaste per tutta la mia vita la cosa che ho odiato di più, e più di ogni altra le cosiddette teorie del romanzo, soprattutto se esposte da teorici fanatici come Saico, che già per il tono alto della voce fanno perdere a chi ascolta, come del tutto ovvio, ogni sensibilità nei confronti dell'argomento. Il signor Saico parlava e parlava per 4 ore filate, parlò di che cosa è un romanzo e non la finiva mai di citare scrittori più o meno importanti, e a volte si correggeva: no, non era stato Joyce a dire la tal cosa o la tal altra, bensì Thomas Mann, non Henry James, bensì Kipling. La mia ammirazione per l'uomo che un tempo era stato pur sempre direttore dell'Albertina si era ridotta durante quella concione di 4 ore a un minimo di stima. Anzi, all'improvviso disprezzavo quell'essere logorroico, lo odiavo e pensavo soltanto a come sottrarmi alla sua presa. Ma solo dopo 5 ore filate, così ricordo, solo quando Saico, del tutto esausto, si accorse a un tratto che con la sua concione mi aveva quasi completamente distrutto, solo allora si accomiatò. Ero troppo sfinito per tirare un respiro di sollievo. Nella notte proseguì per Venezia. Mi ricordo, lì mi risvegliai in un magnifico mattino e corsi in piazza San Marco. Ma chi spalanca le braccia all'improvviso, già da lontano, vedendomi arrivare? Il signor Saico! Come naturale non mi lasciai sgomentare da quell'assurda coincidenza, ma consentì a seguire Saico in un ristorante situato nelle vicinanze del Ponte dei Sospiri per mangiare formaggio con le olive e bere vino rosso. Questa volta Saico non disse proprio nulla e fu soltanto un perfetto buongustaio. Partiva per Ancona con sua moglie quella stessa sera, disse indicando una bianca nave sullo sfondo. Ma non è del signor Saico che volevo parlare qui, bensì di Franz Theodor Csokor, che chiunque lo conoscesse non poteva fare a meno di amare. Al mio ritorno da Venezia trovai una lettera di Csokor con la quale mi comunicava che il Pen Club mi aveva appena eletto a suo membro. All'unanimità, con voto segreto. Adesso ero nei pasticci. Come per qualunque altro circolo al mondo, non avevo naturalmente nessuna voglia di entrare a far parte del Pen Club. In che modo dirlo ora all'amabile gentiluomo, autore del dramma nazionale austriaco dal titolo 3 novembre 1918, senza ferirlo? In fondo, non avevo nulla contro il Pen Club, che ancora oggi non so di preciso cosa sia, ma in nessun caso volevo esserne membro. Odiavo da sempre circoli e associazioni e più di tutto, come naturale, odiavo le associazioni letterarie. E questa è la ragione per cui di recente sono uscito dalla cosiddetta Accademia di Darmstadt, della quale in realtà non ero mai entrato a far parte. E 30 anni fa sono uscito pure dal Partito Socialista, nel quale invece ero effettivamente entrato poco tempo prima. Partiti e associazioni non si addicevano e non si addicono alla mia mentalità. Mi sedetti dunque a tavolino e scrissi a Csokor che ero ben consapevole del sommo onore di essere stato eletto nel Pen Club con voto segreto, come avevo appreso, ma che non potevo venir meno al mio principio di non aderire mai più a un'associazione e perciò non potevo far parte neppure di un'associazione che avesse per presidente lui, Csokor. Mi sentii terribilmente male quando ebbi imbucato la lettera. Non ricevetti risposta. Infine Csokor morì. Frattanto anche Saico era deceduto, dopo aver fatto ancora in tempo a ricevere 4-5 settimane prima di andarsene il grande premio nazionale austriaco per la letteratura e a illustrarmi durante un viaggio in tramvai da Döbling al primo distretto 3 giorni prima di morire il vantaggio, dovendo comprare un paio di scarpe, di non comprarle prima delle 4 del pomeriggio, perché solo verso le 4 del pomeriggio il piede raggiunge la consistenza giusta e necessaria per scegliere le scarpe da comprare. Ogni volta che mi capita di pensare a Saico, il quale, come dicevo, ha scritto L'uomo nel cannetto, per prima cosa mi viene in mente la sua lezione sulle scarpe da non comprare prima delle 4 del pomeriggio, e da quella traggo profitto ancora oggi. E solo in secondo luogo mi viene in mente la concione di 4 ore su che cosa è un romanzo. Tutti e due i defunti hanno oggi per me qualcosa di oltremodo simpatico. Abbiano o no scritto i più incredibili capolavori della letteratura austriaca, se torno a parlare di loro è perché il mio incontro con entrambi è inscindibile dal premio Franz Theodor Csokor. Quando ricevetti il premio dedicato alla memoria di Csokor, coloro che mi consegnarono il premio credevano che ovviamente fossi membro del Pen Club. Quando dissi che no, ovviamente non ero membro del Pen Club, e raccontai loro la mia storia con il Pen Club, furono molto delusi, perché forse, sapendolo prima, quel premio non me lo avrebbero mai dato. Quando nel palazzo del Pen Club, nel primo distretto, vicino alla chiesa dei Minoriti, ricevetti il premio dalle mani di Piero Rismondo, fra tutti i critici della stampa viennese, l'unico che mostrasse di apprezzare i miei lavori teatrali, ero oggetto su tutti i giornali austriaci di un'assai violenta campagna demolitoria nei confronti della mia persona. Per quali ragioni non saprei dirlo, ma ovunque mi si mostrava pollice verso. Per questo l'assegnazione del premio mi fece tanto bene. Il signor Rismondo, il sensibile e colto triestino, non poteva sapere che le sue parole di approvazione rinfrancavano un uomo completamente distrutto, che le sue lodi erano assorbite con somma avidità dalle orecchie di un uomo giunto sull'orlo del tracollo. In quel periodo al Burgtheater erano andate in scena le mie pièce La Brigata dei Cacciatori e Il Presidente e Cavalcata sul Lago di Costanza di Peter Handke, e questo, si pensi, aveva indotto una delegazione del cosiddetto Senato Nazionale dell'Arte, capitanata dal suo presidente, lo scrittore Rudolf Hens, a depositare presso il Ministero della Cultura, in forma di risoluzione, la richiesta che il Ministero volesse gentilmente intervenire presso la direzione del Burgtheater affinché in futuro non fossero più rappresentati gli autori Bernard e Handke. Bernard e Handke, come del resto si poteva leggere ogni giorno sulla stampa viennese, erano pessimi scrittori, si precisava, mentre lui stesso, Hens, e i suoi sodali del Senato dell'Arte erano scrittori di qualità. I prebendari dello Stato avevano calato l'asso di briscola. I giornali riferirono di quell'orripilante iniziativa, tutti quanti senza aggiungere il benché minimo commento. Questo è solo un esempio indicativo dell'atmosfera che regnava presso gli ambienti letterari del paese nei confronti miei e di Handke. Non era la prima volta che mi chiedevo se fosse il caso o no di accettare un premio letterario. Dopo il premio Julius Campe, l'unico che ho accolto quasi con salti di gioia, ho avuto ogni volta una sgradevole sensazione allo stomaco quando si trattava di ritirare un premio, e ogni volta la mia testa si ribellava all'idea. Ma per tutti gli anni in cui ancora arrivarono i riconoscimenti, fui troppo debole per dire di no. Qui il mio carattere, così ho sempre pensato, presenta una grossa falla. Disprezzavo coloro che distribuivano premi, ma non respingevo in maniera tassativa quei premi. Tutto era repellente, ma più repellente di tutto trovavo me stesso. Odiavo le cerimonie, ma facevo la mia parte. Odiavo coloro che distribuivano premi, ma accettavo i loro soldi. Oggi non ne sarei più capace. Fino ai 40 anni mi dicevo va bene, ma poi né è stata una soluzione non accettare la somma di denaro del premio Franz Theodor Czokor, 18.000 scellini, ma farla devolvere all'assistenza ai carcerati di Stein. Anche gesti come quello, legati a un cosiddetto aspetto sociale, alla fin fine non sono immuni da vanità, autogiustificazioni e ipocrisie. Oggi, per me, la questione semplicemente non si pone più. La sola risposta è non lasciarsi più onorare. Elia Shilton ha letto I miei premi di Thomas Bernhard. Traduzione di Elisabetta Dell'Anna Ciancia. A cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini con Chiara D'Ambros. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.